Buongiorno Deborah, buongiorno Barbara. Ascolti. E veramente sono Nico, ma se lei vuole chiamarmi Barbara, solo tra me e lei, ok. Buongiorno a voi, care signore. Sono sempre contento di sentirvi, siete proprio stupende, guardate. Oh, grazie Emanuele. Buongiorno Maria Teresa. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Parlo con Nicoletta o con Deborah? Parla con tutte e due. Esatto, esatto. Siete mitiche, vi fate impazzire. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Sì, viaggiare evitando le buche più dure. Allora, sentimi bene perché adesso metto alla prova la tua memoria. Sono pronta. Quali sono gli argomenti di cui abbiamo parlato all'inizio dell'anno a Cuore Denari? Quale inizio intendi? Ottobre o gennaio? Ho detto anno, quindi non fare la furba. Vuol dire gennaio? Non fare la furba per prendere tempo. Allora, a gennaio abbiamo spiegato un po' come rimettersi in forma dopo le abbuffate di Natale. Sì. Poi c'è stato un tema di denari, la mini IMU, caldaie e caldani. No, acqua, un altro argomento. Ah, lo so quale. Dimmi. A quale puntata pensi? A quella in cui abbiamo cercato di invitare, ma ci ha dato picche a Cuore Denari, Gioele Dix sull'automobilista Inc. L'aumento delle tariffe autostradali. Brava. E un pesce d'aprile che è arrivato in anticipo. Ti meriti un bel 10 anche se hai fatto tanti tentativi. Quindi prossima puntata, memoria. E tra l'altro, se non mi ricordo male, ma questo me lo devi confermare tu, il 10 marzo parte la settimana mondiale del cervello, giusto? Sì, e noi ne parleremo a Cuore Denari. E quindi alleneremo anche un po' la memoria. E dovresti farlo anche tu, perché quell'argomento l'abbiamo trattato anche una seconda volta. Sì. Perché il ministro dei trasporti Lupi aveva promesso degli sconti autostradali per compensare i rincari, ti ricordi? Sì, certo. Non è che con la crisi di governo che c'è stata in mezzo, il ministro che è stato confermato al suo posto gli ha fatto un po' cambiare idea, no? Allora, mi pare di no, ma io direi che ce lo possiamo far confermare direttamente dal palazzo. Allora, io auguro il buongiorno al dottor Mauro Coletta, responsabile vigilanza su concessionarie autostrade del Ministero dei Trasporti. Ho detto tutto correttamente, dottor Coletta? Buongiorno. Perfetto, buongiorno. A palazzo, quindi. Certo, lei. Hai visto, oggi facciamo un giretto a Roma. Dottor Coletta, l'anno era partito con il malumore generale, perché tra i rincari, quelli che avevano indispettito un po' di più sono stati quelli delle tariffe autostradali. Io mi ricordo qualche percentuale, la media era di circa il 3,9%, con punte superiori all'8% su alcune tratte, e un aggravio per famiglia calcolato in circa 87 euro l'anno. Questo calcolo era stato fatto dalle associazioni dei consumatori. Il ministro Lupi aveva prontamente varato un provvedimento destinato a concedere uno sconto sui pedaggi autostradali per i pendolari. Mi pare che sia partito. Certo che è partito. È partito, diciamo, con l'iscrizione da qualche giorno fa, alla fine del mese di febbraio, ma era retroattivo perché dal primo di febbraio si poteva accedere con l'iscrizione e quindi avere le agevolazioni e lo sconto pendolari praticamente. Sì. Quindi è partito tutto tra il 25 febbraio, se non mi ricordo male, qualche comunicazione ufficiale con uno sconto anche retroattivo al primo febbraio, ma per chi lo vuole ottenere deve iscriversi sul sito di Telepass, doveva farlo entro domenica scorsa. Lo doveva fare per accedere al mese di febbraio, ma può continuare a farlo per il mese di febbraio e per i mesi successivi. L'iniziativa scadrà il 31/12 del 2015, quindi c'è ampio tempo per poter andare avanti. Lo sconto è un massimo del 20%, quindi uno sconto importante che va a coprire l'aumento dell'aumento tariffario del 1 gennaio. Però qualcuno ha protestato perché naturalmente poi, come per tutte le cose, non tutte le ciambelle escono con il buco, cara Nicoletta, pertanto qualche contestazione per qualche aspetto che secondo qualcuno poteva essere disciplinato meglio, cioè 20 chilometri al giorno, 10 all'andata, 10 al ritorno, 20 chilometri al giorno, per poi sentirmi dire che non hai voglia d'uscire. Dottor Coletta, ne farebbe troppo pochi a Rigliano per poter godere di questi sconti, perché i chilometri devono essere 50. Ma ci spieghi bene, devono essere tutti di fila? 50 di autostrada, 50 andate e 50 ritorno o 50 complessivi? No, 50 è la tratta, quindi 50 è la, diciamo, la tratta che uno fa l'andata, poi 50 la può fare al ritorno. È indubbio, proprio per calcolarlo, poi 50 è la stessa massima, quindi se uno fa 10 km usufruisce lo stesso dello sconto, però deve individuare una tratta, indubbiamente andata e ritorno, perché se è pendolare deve fare quel tragitto. Mm. Adesso la polemica che sta un po' nascendo è sui 50 km, qualcuno dice sono arrivato a 51 o qualcuno dice ne faccio 48 non sono rientrato. Stiamo sanando tutte queste situazioni. Ah, davvero? Allora ci dà una notizia. In che modo? In che modo? Come la sanerete? Con un provvedimento aggiuntivo? Con un provvedimento aggiuntivo? Cosa è necessario fare? Sì, stiamo estendendo praticamente per alcune tratte dove in effetti la chilometrica effettiva era che ne so, 48 km, faccio un esempio, e poi ci sono delle tratte esterne che comunque vengono conteggiate all'interno del chilometraggio, e in quel caso lì stiamo cercando di introdurle, le introdurremo a breve, ecco. Chiaramente anche il caso retrattivo, ma dal primo marzo. Certo, allora intanto agli ascoltatori, se non vi fossero chiari alcuni aspetti di questi sconti, 800 24 00 24, per farci le vostre domande in diretta, se siete dei pendolari e quindi insomma fate tanta strada nel corso della giornata, lunghe tratte autostradali, spendete molto e quindi insomma questo sconto arriva e per fortuna, diciamo, per molti ascoltatori. Un'altra questione, dottor Coletta, è che molte tratte non gestite dalla società Autostrade sono rimaste fuori da questo provvedimento e quindi qualcuno dice: ma perché ci sono pendolari di serie A e pendolari di serie B? In questo caso un'iniziativa di sanatoria la può fare il Ministero dei Trasporti? Guardi, stiamo lavorando anche su questo. Innanzitutto le società concessionarie che hanno aderito sono esattamente 20, ne mancavano 3 e manca la tangenziale di Napoli, l'autostrada che gestisce la Napoli-Salerno e la RAV, che è l'autostrada che va da Aosta a Courmayeur. Guardi, il problema è la tangenziale di Napoli, che stiamo trovando anche per questa la possibilità di includerla in una maniera forse diversa, ma per dare sicuramente un contributo per i pendolari della zona di Napoli. Mm-hmm. Per le altre due già esiste una forma di sconto con il Telepass, quindi anche lì, diciamo, la possibilità di accedere alla scontistica esiste. Poi dobbiamo naturalmente spiegare ai nostri ascoltatori che non sono dotati di Telepass, perché per ragioni personali non hanno voluto farlo, se lo stesso possono accedere a questo sconto. Nicoletta. Dottor Coletta, quindi si mette una mano sul cuore, dato che io sono la donna di cuore. Questi pendolari soldi li risparmieranno, ne siamo sicuri, state facendo tutto il possibile. È un po' in conflitto di interessi la nostra State lavorando Nicoletta. Per noi? Stiamo stralavorando per voi. Guarda, voi facevate avete dato un numero all'inizio, dice ultimamente per ogni famiglia costerà circa 80-87 euro all'anno. Certo, tutto, una media. L'aumento tarifario. Guardi, chi paga 2 euro per un viaggio autostradale, 2 euro all'andata e 2 euro al ritorno, e fa 40 viaggi in un mese, quindi diciamo quello che è effettivamente un pendolare, riesce a risparmiare 160 euro. Al mese o in un anno? In un all'anno. Certo. Quindi sembra consistente. Sì. No, è certo, no, di questi tempi, di questi tempi non si butta via niente. Ma assolutamente no, quindi l'iniziativa è vera e consistente. Benissimo. L'autostrada è ancora lunga, chi lo sa se arriverò con il cuore già in riserva. Pendolate, chiamate il nostro numero verde 800 24 00 24, raccontateci anche se siete riusciti ad accreditarvi come pendolare, quindi avete diritto a questo sconto sul sito di Telepass, e diteci com'è andata, ma fateci sapere anche se siete rimasti fuori malgrado per un pelo, per un paio di chilometri, perché il vostro tratto autostradale non è coperto. Se almeno si vedesse l'autostrada, ci porterebbe senz'altro una città. Ma in quanti hanno cantato le autostrade? Evidentemente ispira molto, insomma, questo argomento, Nicoletta. Non tutti i pendolari potranno però beneficiare di questi sconti, ma tutti coloro che stanno alla guida possono fare i conti con la sonnolenza, che espone ad una serie di errori che possono anche costarci molto caro, perché l'attenzione viene disturbata e se la sonnolenza è più intensa i colpi di sonno possono essere anche infrenabili. Diventa così molto difficile tenere d'occhio la distanza tra un veicolo e l'altro, per esempio in un sorpasso. Basti pensare che si stima del 20% il numero di incidenti stradali che hanno all'origine una sonnolenza del guidatore. Ne parleremo proprio nel corso della trasmissione, precisamente a partire dalle 11:45. Intanto, se passate ora alla guida, se al mattino o durante il giorno vi sentite stanchi o un po' assonnati, chiamateci. E se volete anche raccontarci qualcosa di più del vostro sonno, noi siamo qui per i gufi e le allodole, per chi fa fatica a svegliarsi e per chi invece non riesce ad addormentarsi, e risponderemo a tutte le domande. In linea con noi avremo una guida d'eccezione, il professor Ferini Strambi. E intanto noi abbiamo richiamato a Cuore Denari colui che io ieri mi sono permessa di ribattezzare il nostro supereroe su questi argomenti, Furio Truzzi, presidente di Asso Utenti, che è un'associazione dei consumatori specializzata proprio sulle tematiche dei trasporti. Buongiorno presidente, bentornato. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Intanto, ecco, le farò fra poco commentare le indicazioni che ci ha dato il dottor Coletta del Ministero dei Trasporti, ma direi anche di sentire subito gli ascoltatori, perché chiaramente con le loro situazioni pratiche vivacizzano non poco il nostro programma. Norberto da Torino inaugura oggi le chiamate. Perché sorridi? Perché sono chiama antisonnolenza. Norberto, vedi Norberto. Norberto, che nome nobile e impegnativo. Eccoci qua lei. Buongiorno, mi chiamo appunto Norberto. Sì, come Bobbio. No, è Bobbio che si chiama come me. Si chiamava. Allora, quanta strada? Sì, quanta esatto. Strada l'anno, Norberto? Dunque, allora, io telefono per questa ragione. Io sono da 26 anni a sta parte un viaggiatore di commercio. Sono mediamente sui 60.000 km all'anno. E volevo appunto dire che la più parte delle persone, a mio avviso, che durante la settimana utilizza l'autostrada non va certo in giro per divertimento e fa sicuramente ben più dei famosi 50 km a tratta o meno. Io mediamente nell'anno sono intorno ai 3.000 quest'anno euro di via car, non uso il telepass perché in anni addietro ho avuto dei problemi. Ecco, perfetto, così questo, sentiamo se anche chi ha la via card accede agli sconti. Certo, Norberto. No, ma non è questione di sconto, è questione che io comunque supero i 50 km, quindi non ho diritto a questo sconto. Io credo che sia una minoranza quella che cade nella proposta fatta dove si batte molto la. Allora Norberto, insieme alla sua osservazione e alla sua lamentela, io ce ne metto anche qualcun'altra. Direi di sentire Furio Truzzi, il presidente di Asso Utenti, così almeno. Certo, dottor e poi Coletta. Lo commentiamo con il dottor Coletta. Truzzi, allora, non abbiamo tra le cose che ancora mancano, no? Il provvedimento che in certi aspetti era insoddisfacente, prima il dottor Coletta del Ministero dei Trasporti ha detto stiamo intervenendo, e però Norberto ha sollevato un'ulteriore questione. Ma le questioni da sollevare sono solo quelle di Norberto, ma ben più numerose e consistenti. Al dottor Coletta dico che cosa aspetta il Ministero dei Trasporti a convocare le associazioni dei consumatori per ragionare come rendere effettivo, più credibile questo provvedimento, per parlarci chiaro, non solo per soddisfare coloro i quali si lamentano di non essere nei 50 km, ma anche coloro i quali, ricordo che la norma, perlomeno dal sito Telepass, dice che bisogna fare almeno 2 viaggi al giorno, almeno 21 per incominciare ad avere lo sconto dell'1% progressivo fino al 40° viaggio. No? Questo significa un pendolarismo costante che è difficile quantificare per chiunque in una platea estesa. Sono veramente pochissimi quelli che potranno godere di questo beneficio, perché significa che uno tutti i giorni, perlomeno per le 4 settimane di lavoro mensili, se vuole lo sconto massimo del 20%, perché ricordiamolo a chi ci ascolta, lo sconto è progressivo. Se io faccio 25 viaggi non ho lo sconto del 20%, ho lo sconto del 5% sui 5 viaggi rimanenti, quindi è improbabilistico dichiarare sconti presunti di grandi cifre. Però ecco, noi siamo disponibili, perché tutto ciò che va nell'interesse degli utenti ci vede coinvolti. Ecco, quindi a nostro avviso, se vogliamo intervenire sul fatto che non è stato adottato un provvedimento di fermo delle tariffe che dovrebbe andare all'origine del sistema, perché il sistema autostradale, come viene determinata la tariffa, il dottor Coletta lo sa, è un sistema un pochettino pro autostrade, visto che vengono riconosciute anche forme di investimenti che poi magari vengono attinti alla Cassa Depositi e Prestiti con sconti fantastici e che non mettono in luce nemmeno il rischio di impresa, ma questo appartiene a una nostra forte richiesta, che è quello di rivedere i contratti di servizio con le concessionarie. Ma, con un maggior però, è un tema che avevamo sollevato anche all'inizio dell'anno. Dottor Coletta, li sentirete con le associazioni dei consumatori? Io non ho nessun problema, l'abbiamo fatto in passato con alcune associazioni, lo facciamo ancora, quindi per carità, massima trasparenza e massima apertura. Però mi consentite due piccole risposte, certo, velocissime. Sì. Allora, i contratti ci sono e devono essere rispettati. La tariffa viene calcolata in una maniera molto attenta, analitica, vorrei dire quasi cartesiana, cioè non è che vengono riconosciuti aumenti tariffari così perché uno si immagina che qui hanno fatto un lavoro. Vengono attentamente valutate tutte le condizioni contrattualmente previste, da partire dall'inflazione per arrivare agli investimenti effettivamente eseguiti. Guardate, chi fa 25 viaggi, il 5% di sconto lo ha su tutti e 25, non solo sui 5, attenzione. Ah, quindi non solamente sugli extra dopo il ventunesimo. Ce l'ha su tutti e 25, questo è bene chiarirlo, come chi ne fa 30, non su 10 ma su tutti e 30. Senta, dottor Coletta, ma deve dimostrare che questo pendolarismo è per ragioni di lavoro, perché io le spiego il mio caso. Io sono di Ancona, la mia famiglia è di Ancona, vado a casa una volta al mese. Una volta al mese io faccio un bel viaggio di 1000 chilometri, 4,90 l'andata e il ritorno. Non è un pendolare. Esatto, quindi anche se lo faccio una volta al mese, comunque per un viaggio così impegnativo non posso. E come si fa a dimostrare il pendolarismo? Cioè si vede dal tratto, è il telepass che lo dice. Guardi, chi fa più di 20 viaggi è un pendolare, perché altrimenti si mette in autostrada facendo avanti e indietro. Non abbiamo fatto come il passato a chiedere certificazioni particolari. Chi in autostrada percorre più di 20 volte, più di massimo 50 km ha diritto allo sconto. Si iscrive, non è nessun problema. Ma gli sconti sono reali, sono veri, sono però dimostrato. Sono in automatico, no? Dunque dalla fattura che arriva su Telepass noi abbiamo questa cifra che va a scalare. Esattamente. Allora Marco da Roma ha provato ad iscriversi sul sito di Telepass e dice che ha avuto dei problemi. Adesso non abbiamo Telepass con noi, quindi non so se riusciamo a rispondere per questo inghippo, però ci proviamo. Marco, buongiorno. No, guardi, il problema è semplice, io sono utente Telepass, ho tentato una settimana fa, avendo appreso per caso poi questa informazione, mi sembra particolare, doveva essere magari più divulgata questa notizia, e entrando nel sito Telepass non c'era nessuna possibilità per fare questa iscrizione. Ho scritto al service e mi è stato risposto da Telepass che non era ancora in via di definizione questo accordo. Mi sembra strano che venga detto il contrario di quello che invece noi utenti riscontriamo sulla... Marco, aspetti lì. Allora, lei quando ha provato a iscriversi tenga conto che tutto si è saputo dal 25 febbraio in avanti, quindi diciamo che siamo proprio nell'ordine dell'ultima settimana, ecco. Glielo posso garantire. No, ma Marco, non ci mancherebbe altro che dubitiamo di noi. Insomma, Marco proprio ha il profilo giusto perché cosa? Per lanciare questa iniziativa che vogliamo offrirvi e far partire, e soprattutto che voi la sosteniate, che è un nuovo spazio che abbiamo intitolato Una giornata da ministro. Un giorno da ministro. Quindi Marco oggi si mette la giacca del ministro e dice: ma insomma, a me è inutile che voi parliate, questa cosa non mi va, e insomma ce l'abbiamo messa noi magari anche questa giacca. Dottor Coletta, è chiaro che subito non poteva partire tutto perfettamente, no? E poi io posso anche dire, adesso non è che vi voglio difendere, comunque nel momento in cui non abbiamo niente da nessuno, per me ben vengano anche questi sconti, pochi maledetti e subito, però insomma è una buona cosa. Poi tutto si può aggiustare. Su Telepass che informazioni ha? Guardi, innanzitutto l'iniziativa è vero che parte il 25 come registrazione, però se ne parla già dal primo del mese, addirittura da immediatamente all'aumento tariffario il ministro Lupi ha proposto un'iniziativa e siamo andati avanti. Guardi, il ministro Lupi l'ha annunciata proprio a Radio 24 questa iniziativa, la prima settimana, forse il 2 gennaio addirittura con Anna Migliorati, quindi ce lo ricordiamo. Però poi una campagna informativa un po' più incisiva forse si poteva fare, no? Ecco, però le posso dire, cioè nel sito Telepass a destra c'è proprio la sconti per i pendolari, aperta, sì, per i pendolari, quindi un po' di attenzione si riesce a trovare. Certo, uno deve avere l'ID, deve avere alcune cose, ma si riesce ad avere anche in maniera veloce, voglio dire, ecco. Insomma, si deve ascoltare Radio 24. Guarda, questa è la morale. Il ministero farà anche una bella campagna pubblicitaria su questa cosa qua, e così certo. oggi intanto che noi salutiamo il dottor Coletta ringraziandolo per essere stato con noi, vi invitiamo a partecipare a questa nuova iniziativa, almeno per oggi. Sì, esatto. È una giornata da ministro, e quindi fateci le vostre proposte, poi magari noi le raccogliamo e le facciamo sentire anche al dottor Coletta. Il tema del giorno è naturalmente chi viaggia molto per ragioni di lavoro, chi è pendolare, ma non vi lamenterete solo per il fatto che pagate la tratta autostradale, strade che insomma qualche volta hanno una qualità che non va bene. Ci sono tante cose da dire, quindi mettetevi questa casacca da ministro dei trasporti oggi e diteci un po' come la pensate. Grazie dottor Coletta, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. Naturalmente Furio Truzzi rimane con noi. Assolutamente, lo vogliamo tenere, perché se volete parlare con noi, se questo sconto vi tocca, se invece siete rimasti fuori, chiamateci anche per raccontarci le vostre esperienze. Parleremo anche di un problema che non fa sconti, ma anzi mette in pericolo la vita di chi guida, e non solo. Parliamo del colpo di sonno e parliamo di sonnolenza diurna. Spesso si parla di insonnia, poco invece di quell'abbiocco che ci colpisce durante la giornata, in momenti meno opportuni, facciamo la fatica magari a risvegliarci, l'abbiocco postprandiale, ma c'è anche una sonnolenza di cui noi vogliamo capire le cause, vogliamo indagare, poi soprattutto evitare quella sonnolenza al volante che può rischiare davvero, farci rischiare davvero molto. 800 24 00 24, abbiamo tantissime telefonate come sempre. No, tra l'altro anche sugli sms notavo che, come dicevamo dall'inizio, alcune tratte autostradali non gestite dalla società Autostrade si sono mosse di loro iniziativa. Stefano da Trento ad esempio segnala che sulla A22 i residenti in Trentino hanno il 20% di sconto su casello all'interno dell'autostrada da sempre, ma sappiamo Stefano che là stiamo parlando proprio di un mondo a parte, dove la qualità della vita è quello che è. Il Sole 24 Ore lo racconta da anni, e quindi tutti insomma sogniamo di vivere in maniera simile ai trentini. Che facciamo, la borsa o gli altri ascoltatori? Antonio ci scrive, buongiorno ragazze, già questo ci piace, già lui è il nostro preferito del giorno. Sto andando per lavoro ad Ancona, e poi c'è un messaggio per te, perché conosci, cara Debora, vado in Piazza Rosselli da Gino a mangiarmi lo stoccafisso, e poi se mi viene sonno accosto e buonanotte. Io faccio circa 100.000 chilometri all'anno, solo disagi, come ora in colonna senza segnalare. Bravo Antonio, perché questo è quello che avrei denunciato io se oggi mi fossi potuta mettere la casacca da ministro. Io pure faccio di quei viaggi indimenticabili, insomma c'è proprio una tratta, la A14, per lunghe distanze su due corsie, che è impraticabile in certi momenti, per cui sono molto solidale con Antonio. Cuore e denari. Ecco, mi sembra proprio intelligente l'osservazione di Rino Gaetano, perché noi questa mattina stiamo facendo il punto sullo sconto per i pendolari che viaggiano in autostrada, ma accanto a questa buona notizia che comunque lascia un po' insoddisfatte le associazioni dei consumatori, ce n'è una pessima, perché nel weekend, zitto là, è scattato, tra altre polemiche naturalmente, il ritocco all'insù dell'accisa sulla benzina, come se non ce ne fossero già abbastanza, no? Furio Truzzi, l'aumento è di 0,24 centesimi al litro per la benzina, di 0,34 per il gasolio, ahimè che ho il diesel, insomma pure questa ci mancava. Non andiamo nulla bene. È come gettare benzina sul fuoco. L'abbaglio del petrolio è un grande abbaglio, ecco, siamo fuori sistema. Se A me fa piacere che il PD sia entrato nel PSE europeo, ma anche la benzina italiana deve entrare nella benzina europea. Ecco, quindi al nostro Premier, che è molto attento all'Europa in maniera anche, come dire, di riequilibrare un po' le questioni per noi italiani, faccia mettere al primo posto ai suoi ministri questo problema, anche perché non è possibile che la benzina italiana sia fuori dal sistema europeo. No, allora, dottor Truzzi, partecipi anche a lei alla nostra iniziativa, una giornata da ministro, la spari? Se è contento di metterla, perché non so, magari. Però qualora faccia la sua proposta. No, la mia proposta è semplice, la mia giornata da ministro è portare la benzina nella media europea. Eccolo là, per quello che riguarda visto il carburante. Che parliamo di benzina e parliamo di carburante. Anche perché questo ritocco dell'accisa non è mica riconducibile alla crisi ucraina, qua stiamo parlando di altro, va a finanziare altro, per cui e poi ecco queste accise, siccome non sono i prezzi di mercato che muovono il prezzo, l'accisa poi rimane là e non ce la scrolliamo appunto, più di dosso. Noi avevamo chiesto una sorta di scala mobile delle accise, una procedura di raffreddamento, perché non è possibile poi che ogni aumento del greggio, no, scatta l'accisa e gli va dietro, cioè veramente una trappola infernale, perché una volta che è messa lì, questa cresce, si alimenta e ovviamente va a danneggiare le tasche dei consumatori degli automobilisti. E fra vent'anni è ancora lì come la guerra della Bissignac, per la quale ne è stata introdotta una delle tante. Senta, Presidente Truzzi, quanti ministri abbiamo? Ne abbiamo diversi, infatti io vorrei tornare a parlare di sconti, perché poi abbiamo da sentire Simone che ci chiama da Firenze, Danilo da Milano. Vi leggo quelli che ho segnalato, ma una giornata da ministro suggerisce revocare la concessione alla società autostradale. Questa mi sembra una buona idea. Monopolio naturale, del quale abbiamo parlato tante volte, una grande battaglia di Sebastiano Barisoni a Focus Economia. Davide invece chiede lo sconto in autostrada per disservizio in caso di code che prolungano il viaggio da Siena a Bologna in 6 ore, mi sembrano troppe. Ma che lui si faccia, in estate, io da maggio a settembre la Rimini-Ancona è impraticabile, ti segnalano rallentamenti, sono delle vere e proprie code che mi fanno star ferma lì ore e ore, sono veramente dei viaggi allucinanti, io ho bisogno di andare a casa in macchina, per cui non si capisce per quale motivo, soprattutto anche la segnalazione non è mai corretta. Ottimo. 800 24 00 24, per fare le vostre proposte, ma anche per trovare una risposta ai vostri dubbi. Simone, buongiorno, ci chiama da Firenze. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Senta, io abito a Barberino di Mugello. Tutte le mattine, per motivi di traffico urbano, faccio Barberino Calenzano, mentre la sera faccio Firenze Nord Barberino per tornare a casa. Quindi due tratte differenti. Lei dice. Sì, cioè esco al casello prima, c'è un chilometro di differenza. Solo per motivi di traffico urbano devo uscire lì, se no non riesco ad arrivare in tempo. Però c'è un chilometro di differenza fra Calenzano e Firenze Nord. Però lei comunque tutti i giorni fa lo stesso tipo di tragitto, all'andata ne fa una, al ritorno un'altra, si può dimostrare, certo, ecco, Truzzi, speriamo che... Il nostro amico Fiorentino ha perfettamente ragione, cioè per questo che sarei lieto che vi annunciasse domani, dottor Coletta, la data di questo incontro, perché, come dire, gli esperti dei consumatori siamo noi, ora Cavaldonato non si guarda in bocca, ma per far funzionare questo sconto, ma veramente bisogna usare il buon senso, quello che dice il nostro amico, ma anche chi ad un certo punto fa un certo numero di chilometri nell'arco di un mese, ci semplifica la vita, ma insomma se uno fa 10.000 chilometri al mese non ha diritto a uno sconto, insomma sono queste un po' le cose che potrebbero mettere a posto. Coletta a Roma sta prendendo appunti, sono certa che sistemerà tutte queste situazioni. Gli manderemo anche le proposte dalla giornata di ministro. Sì. Danilo da Milano e poi abbiamo subito Claudio da Bergamo che ha fatto una cosa saggia. Sì. Ha superato la barriera rosa dicendo non voglio fare una domanda ma la mia proposta da giornata di ministro. Salutiamo le nostre amiche al centralino. Certo. Danilo. Buongiorno. Buongiorno a voi e complimenti per la trasmissione. Grazie. Ci dica. Ascolti, noi, almeno io faccio una tratta tutti i giorni intorno ai 48 chilometri, da Milano a casa Pusterlengo. È un po' una bufala questa, nel senso che sono escluse tutte le partite IVA. Cioè io faccio 40 viaggi mensili e a questo punto questo discorso è escluso. Sono solamente family e business, per cui è molto molto ridotto. Non avevo riflettuto oltre allo scalone dei vari sconti, per guardi, cui è veramente, secondo me... No, ha ragione, è inaccettabile, perché qua il lavoro autonomo in questa crisi è stato bastonato in ogni direzione. Per esempio, si fa la moratoria sui mutui e vai che il lavoratore autonomo, l'artigiano, non può aderire all'iniziativa della banca per sospendere il mutuo. Eppure questa, Truzzi, anche qua un'altra casellina da riempire per ma il Ministero dei Trasporti. Ma sì, io torno a dire, sono convintissimo che... partendo dalla buona fede del ministro Lupi, cioè quello di dare una risposta immediata di fronte a un aumento tarifario, poi io ribadisco, dobbiamo rivedere i contratti di servizio, mi dispiace ma è un'insistenza, però sugli sconti veramente facciamo un servizio ai lavoratori autonomi, a chi fa una fermata all'andata e un'altra al ritorno, insomma a chi pur usando il veicolo non rientra in un rigido schema che francamente lascia fuori una platea molto vasta di automobilisti, e quindi rinnovo la richiesta, rivediamo bene questo impianto per renderlo effettivo a chi usa la macchina anziché il mezzo pubblico. Poi voglio dire, se il ministro vuol fare anche uno sconto a chi si fa gli abbonamenti ai treni, noi non diciamo di no. Certo. Senta Truzzi, se però il ministro, il dottor Coletta la invitano, lei ci deve subito chiamare, perché noi insomma ci sentiamo ormai un questa po'... battaglia è nostra, sì. Anche perché solo con voi vi abbiamo messo un po'... insomma, siamo stati un po' cupido. Ma parliamo di Carlo piuttosto. Di Carlo? Perché, scusami? Ma povero, fa 70 km al giorno, non l'abbiamo neanche coinvolto. È un po' il convitato di pietra a questa trasmissione, ne avrebbe pienamente diritto. Insomma, il marito di Nicoletta, che fa il medico, va tutti i giorni a Varese, a Busto Arsizio, non mi ricordo. No, a Legnano, così dice. Vabbè, tu l'estratto conto del telepass non l'hai visto. Non lo guardo perché è meglio, no? Occhio non vede, cuore non duole. Ma carta canta, e quindi potresti anche controllarlo per verificare se fa lo stesso tragitto tutti i giorni. Questo medico potrebbe ottenere lo sconto, quindi mi raccomando. Cosa mi potrà regalare, dottor Truzzi? Io insisto, cioè i famosi 20 viaggi a 50 chilometri sono 1000 chilometri al mese. Basta dire che chiunque fa da più di 1000 chilometri al mese si fa lo sconto e la finiamo lì tra partite IVA, dipendenti, medici, 70 e certo, chilometri, tanto il telepass 50, canta 41. Chiaramente. E non insomma, è che... cerchiamo di usare... come si dice, il buonsenso, e non fare gli italioti e inventare misure complicate anche per lo sconto sul telepass, insomma. Benissimo. Vediamo di semplificare. Parola d'ordine. La semplificazione, semplifichiamo lo sconto sulle autostrade. La diversificazione per risparmio. La mia proposta è semplice, me l'avete imboccata e sono contento di lanciarla da Radio 24. Chi supera i 1000 chilometri al mese ha diritto allo sconto. Punto. Basta. Benissimo. Allora, adesso intanto abbiamo tante proposte che tu potresti andarti a leggere l'SMS, la pagina, ad esempio. Io intanto volevo salutare Claudio da Bergamo. Sì. Buongiorno. Buongiorno Claudio. Mi ha appena risposto a quello che ho detto io. Allora, io sono, non dico un privilegiato, però noi agenti di commercio possiamo scaricare l'IVA al 100% e l'imponibile all'80%, perché praticamente presuppongono, diciamo, la promiscuità del mezzo che usi anche per me, per tuo uso personale, e sì, ci sta, per l'amor di Dio, benissimo, indipendentemente dai chilometri, da cosa fai, io, cioè, mediamente un agente di commercio che si rispetti meno di 50.000 chilometri all'anno difficilmente non ne parla, esatto. No, guarda, gli agenti di commercio sono nostri grandi amici, siamo andati anche alla loro fiera, qua alla manifestazione, ecco. Però quello che voglio dire io, cioè, adesso non dico di arrivare come in Germania, addirittura c'è il rimborso anche della benzina al posto di lavoro, però senza far cose farraginose, sconti, tetti, scaglioni, cose sempre complicatissime, noi italiani se non facciamo le cose complicate non siamo felici. Allora, giustamente ha detto prima, scusi, il ministro, dico bene, no? Era un dirigente del Ministero dei Trasporti. Il dirigente ha detto una cosa giustissima. Allora, se tu hai, mettiamo una franchigia, che siano 500 euro o i 1000 chilometri, si mette una franchigia, quella lì è il minimo. L'ha detto il presidente di Assutenti, si sono le associazioni dei consumatori che fanno questa proposta. E ci siamo, è quella la soluzione. Uno alla fine ha carta canta, il telepass emette che sia una fattura, una ricevuta, quello che c'è, e uno ha diritto a scaricarsi l'80% dei costi. Grazie mille. Grazie Claudio, questa è la sua proposta, esatto. Ma Luca ci scrive che da una giornata del ministro, propongo per i pendolari il bollino annuale da pagare una volta sola, come fanno all'estero invece di pagare ogni volta. Faccio solo un'ultima domanda a Furio Truzzi, che poi dobbiamo salutare, rimanendo a bocce ferme la situazione che abbiamo in questo momento, senza entrare, Truzzi, le chiedo gentilmente, nella contestazione. Chi non ha il telepass, ma per sua scelta vuole tutti i giorni fermarsi al casello, estrarre il bigliettino e pagare l'incontanti, no? In questo caso può accedere allo sconto? No, Ecco, no, quindi però, tu puoi, poi... no, però vorremmo che rientrasse. Certo. L'idea della franchigia chilometrica, se il dottor Coletta ci riceverà e la possiamo valutare, è veramente un toccasana per un problema reale per chi usa molto la macchina e l'autostrada. Molto bene, allora dalle ministre in pectore Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani lasciamo adesso questo argomento dello sconto autostradale, sul quale però ritorneremo. Assolutamente, insieme anche al dottor Truzzi, che tornerà a trovarci, ci twitterà. Esatto, come fa sempre, ovviamente, e soprattutto ci avviserà quando sarà convocato dal ministro dei trasporti. Grazie presidente Truzzi, e buona giornata. Buona giornata a tutti. E tra poco, subito dopo le informazioni sul traffico, parleremo con il nostro esperto, il professor Ferini Strambi, che ci aiuterà ad affrontare un tema che spesso viene trascurato, perché offuscato, diciamo così, dal suo contrario. Parleremo di sonnolenza diurna, che in parte può essere considerata l'altra faccia dell'insonnia, e soprattutto, dato che oggi viaggiamo, parliamo del colpo di sonno. Cuore e denari. Sono le 4 del mattino, devo consegnarlo alle 8. Io non dormo di giorno come fai tu. Io non dormo mai. Di notte faccio la guardia notturna, di giorno faccio la guardia diurna per la centrale delle guardie notturne. Così? Tu come fai a stare sveglio per tutto questo tempo? Conosco una ventina di tecniche. Sì, eh? Beh, allora potresti anche aiutarmi a tenermi sveglio fino alle 8. Ma sicuro! Vittorio, non c'è un metodo più tranquillo per tenermi sveglio? Che cosa volevi? Due gemelle thailandesi che ti fanno i massaggi ai piedi? No, però queste sono... Silenzio! Buongiorno al professor Ferini Strambi, responsabile del Centro di Medicina del Sonno del San Raffaele Turro di Milano. Bentornato. Buongiorno a voi. Professore, c'è chi ha sonno e non può dormire, c'è chi vorrebbe dormire ma non ha sonno. Entrambe queste situazioni comportano dei rischi per la nostra salute e per la nostra sicurezza. Sui danni nel breve e nel lungo periodo dell'insonnia abbiamo parlato più volte con lei nel corso delle nostre trasmissioni e siamo pronti naturalmente a tornarci anche oggi, guidati dalle domande che arriveranno al nostro numero verde. Ma dato che oggi Cuore Denari è salita in macchina, mi preme affrontare con lei il tema della sonnolenza diurna, che è una minaccia seria per chi guida, tanto che si stima che il colpo di sonno sia responsabile del 20% degli incidenti stradali. Professore, però io credo che il primo passo sia capire esattamente che cosa intendiamo per sonnolenza e distinguerla dalla stanchezza, perché noi tendiamo un po' a considerarle come se fossero la stessa cosa e invece so che voi medici, soprattutto gli esperti di medicina del sonno, le tengono opportunamente separate. Ma sì, sicuramente bisogna tenerle separate perché sono due situazioni, due condizioni assolutamente diverse. La sonnolenza è proprio la difficoltà a star svegli, cioè quindi il soggetto che proprio non ce la fa a star sveglio e quindi a volte mette in atto tutti quei meccanismi per cercare appunto di non addormentarsi, di non crollare. Basti pensare, magari penso che è un'esperienza comune a tanti di noi, quando alla sera magari sono stati a cena fuori e devono rimettersi in macchina, poi uno cerca in tutte le maniere di strofinarsi gli occhi, di darsi pizzicotti, di alzare il volume della radio, dell'autoradio per cercare di star sveglio. Quindi quella è la sonnolenza, cioè quindi sentire proprio questo torpore che sta arrivando e quindi uno cerca di contrastarlo. La stanchezza invece è proprio quella, una sensazione diciamo più fisica che non psichica, quindi il fatto proprio di sentirsi proprio molto molle, molto stanco, affaticato, la voglia di stendersi, di sdraiarsi, ma non perché uno voglia dormire, ma proprio perché uno vuole mettere a riposo la propria muscolatura. Il problema è che a volte in uno stesso soggetto si possono verificare entrambe queste condizioni, quindi può esserci sia la sonnolenza che la stanchezza, e questo spesso succede magari appunto, come citava prima lei, il fatto magari dei soggetti che dormono molto poco di notte e che quindi di giorno presentano entrambi questi problemi, sia la stanchezza che la sonnolenza. Quindi professore, adesso che abbiamo ben chiara la differenza, cerchiamo di capire quali possono essere le cause di questa sonnolenza: il ritmo del sonno e della veglia irregolare, come ad esempio per i lavoratori turnisti, l'abuso di alcol, i farmaci, un riposo disturbato o di cattiva qualità. Certo, ma sicuramente la prima cosa che può giustificare questa sonnolenza è un tempo di sonno ridotto, cioè quindi proprio la quantità ridotta di sonno. E questo, ahimè, è una condizione che spesso noi riconosciamo. Perché? Perché preferiamo, invece di dormire, magari fare altre cose, magari piacevoli, e quindi rubiamo un pezzo del nostro riposo notturno. Oppure ci sono dei soggetti che purtroppo, ahimè, sono costretti a questa riduzione del tempo totale di sonno perché devono prendere un treno al mattino alle 7 o alle 6 e mezzo e quindi dormono meno di quello che è necessario. E quindi sicuramente la riduzione del tempo di sonno notturno è un aspetto molto importante. Io questo lo dico sempre, non solo ai pazienti, lo dico per dire anche agli studenti quando faccio lezione, per far capire come si riesce a capire se un soggetto ha sonnolenza perché dorme meno di quello che è necessario. Molto ecco, semplice. Proviamoci anche noi. Si chiede al soggetto cosa succede, ad esempio, la domenica, quando riesce a dormire un po' di più, oppure in vacanza, quando riesce a dormire un po' di più. Ecco, questi soggetti che hanno sonnolenza in rapporto a una privazione di sonno, comunque a un tempo ridotto di sonno, quando riescono a dormire bene stanno benissimo e la sonnolenza sparisce. Quindi questo è un primo aspetto fondamentale e importante. Oppure non è soltanto un problema di quantità del sonno, ma può essere anche un problema di qualità del sonno. E quindi allora qui abbiamo i soggetti che fanno le apnee mentre dormono, i soggetti che russano abitualmente, i soggetti che hanno scatti alle gambe mentre appunto stanno riposando, oppure i soggetti che dormono in una via rumorosa. Ecco, tutte queste situazioni che vanno a frammentare il sonno, a spezzettare continuamente il sonno, hanno appunto come risultato finale il fatto di avere una sonnolenza di giorno. E insomma, tanti sintomi diversi nei quali molti dei nostri ascoltatori si stanno riconoscendo e sono pronti ad intervenire. Daniela da Firenze, Massimo dalla provincia di Alessandria, Silvio dalla provincia di Cuneo. Chiedo loro solo un istante di pazienza perché ho un'altra domanda per il professor Ferini Strambi. Dobbiamo, come dire, chiedere agli ascoltatori se hanno un partner che di notte russa, di giorno quando è alla guida potrebbe rischiare grosso, no? Quindi fare particolare attenzione a questo compagno che magari ha delle notti non particolarmente sereni. Per gli esperti del sonno, il colpo di sonno è un osso duro, professor Ferini Strambi, no? Perché solo attraverso un esame specifico mi pare si possano individuare le persone a rischio, sbaglio. Poi questo esame, Nicoletta mi ha insegnato oggi, che si chiama polisonnografia. Sì, certo, allora, come dicevo io sono prima, un po' una allieva del professor Ferini Strambi, dica la verità. Perché russi di notte, sì, Carlo, sì. Si lamenta? Eccoci. No. Russerò ecco. Anch'io sicuramente, perché nessun russatore ammette di russare, no professore? Io russo assolutamente, no. È vero. Ecco, per questo che è fondamentale quando si chiede a un soggetto se russa che sia presente anche il partner o la partner. Perché registri magari. Chi dorme accanto, perché sennò si rischia veramente di non riconoscere questo problema. Però ecco, l'esame, il polisonogramma che veniva citato prima, e questo è soprattutto importante quando facciamo un esempio pratico. Un soggetto mi dice dormo 7-8 ore normalmente, però ho sonnolenza di giorno, oppure mi sveglio al mattino e ho la sensazione di non aver dormito quelle 7-8 ore che in realtà ho dormito. Ecco, in questi casi, quando appunto c'è sicuramente dietro un problema di possibile frammentazione del sonno, dobbiamo capire qual è la causa e quindi dobbiamo fare questo esame del polisonogramma proprio per cercare di capire se c'è un problema respiratorio, oppure se c'è un problema di motorio, oppure in alcuni casi non c'è né l'uno né l'altro, ma ci sono problemi anche di un'alterazione della struttura del sonno. Un esempio pratico, anche proprio perché stamattina vedendo i nostri pazienti ricoverati qua da me, ecco, c'è un paziente che ad esempio dorme benissimo come quantità di ore, quindi le 7-8 ore, non ha problemi di russamento, non ha problemi, ma si sente stanchissimo. E abbiamo scoperto perché facendo il polisonogramma, proprio perché questo soggetto ha tantissimo sonno REM, che è il sonno in cui si sogna, e quindi facendo tanto sonno REM praticamente questo soggetto non riposa come dovrebbe. Ma professor Ferini Strambi, quindi come ci scrive un ascoltatore al 349-238-6666, la persona però che russa, che ha anche delle apnee notturne che sono vicine un po' al russamento, quando noi le riconosciamo perché il russatore va in apnea, smette improvvisamente di russare, dando sollievo al partner ma indicando che la situazione è un pochino più severa, potrebbe rischiare colpi di sonno? Certamente. Quindi il soggetto con russamento abituale, il soggetto che poi che fa le apnee, sicuramente rischia un attacco di sonno durante la giornata. Noi perché rischiamo, sì. Proprio per questo, perché la sindrome dell'apnea ostruttiva è una delle cause più frequenti proprio della sonnolenza di giorno. Noi rischiamo di perderci Daniela, che c'è da Firenze. Subito, che Daniela. La invitiamo ad intervenire rapidamente prima di dare la linea al nostro GR. Buongiorno Daniela, benvenuta. Buongiorno. Senta, io vi chiedevo, come mai questo abirocco mi prende solo se vado in macchina? Se dopo mangiato vado in macchina... È un po' come quello dei bambini, Daniela, che non appena li mettiamo dentro lì, track, su. C'è mia nipote che è proprio track, appena si mette là, si addormenta immediatamente, però piccina. Ma no, dopo mangiato. E sentiamo... Dopo mangiato c'è un motivo, il motivo non è tanto legato al fatto, magari chiaramente facilitato se uno mangia molto, se beve magari un bicchiere di vino, ma comunque sia, dopo mangiato, nel periodo post-prandiale, quello è il momento tipico della sonnolenza, ma non tanto appunto per il cibo, ma proprio perché si apre nel pomeriggio, verso le 2 del pomeriggio, una piccola finestra che si apre verso il sonno, proprio perché a quell'ora c'è una più facile tendenza all'addormentamento. Ci sono, tant'è vero, molte persone che, siccome sanno che se poi mangiano e bevono, questo fenomeno si accentua e quindi preferiscono addirittura saltare il pranzo. Ecco, ma questo è proprio un problema fisiologico. A quell'ora lì si apre questa piccola finestra che ci fa dormire. E andiamo a Silvio, ci chiama dalla provincia di Cuneo. Benvenuto Silvio. Grazie, saluto Nicoletta perché noi ci conosciamo. Ah, l'ho riconosciuta, Silvio Bessone, un grande artista del cioccolato. Silvio. Grazie Nicoletta, io... Allora adesso fa anche la conoscenza con me però, Silvio, perché sennò qua ci rimango anche un po' male, soprattutto data questa sua qualità. Certo. Ecco, certo, ci dica. Ascoltate, io da sempre, quindi da quando sono bambino, dormo pochissimo. Io dormo mediamente 3, al massimo 4 ore al giorno, lavoro per il resto, quindi mediamente... C'è anche un altro Silvio che dorme giorno. Così poco. Però il problema è che se io il giorno, penso che prima diceva il dottore, no? Che se io il giorno di riposo dormo 7-8 ore, è malissimo. Che per me è una follia, mi sveglio come se fossi avvelenato. E ha mal di testa. Mal di testa pazzesco. Silvio, perché tu devi continuare a creare le tue splendide cioccolatini. Esatto. Tu continua a lavorare, Silvio, e noi pensiamo al resto. A tra poco, dopo il GR, con la risposta per Silvio del professor Ferini Strambi, naturalmente. Cuore e denari. Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne. È la setta degli insonni. Io ne faccio parte da 10 anni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni. Il motivo è molto semplice. Chi soffre di insonnia ha un'unica ossessione: addormentarsi. E anche noi non potevamo non omaggiare Tony Servillo, ma non parliamo di lui. Oggi parliamo di gufi, allodole, russatori e guidatori. Restate con noi, diteci che cosa vi fa dormire e che cosa non vi fa dormire, perché noi oggi ne parliamo con il professor Ferini Strambi. Ci vorrebbe proprio un gallo per risvegliarci quando siamo alla guida e temiamo che il sonno ci prenda. Arrivi quel famoso colpo di sonno, cerchiamo di attrezzarci, c'è chi beve un caffè prima di mettersi in viaggio, chi tira giù un po' il finestrino per farsi risvegliare dall'aria fresca, chi mangia qualche cosa, chi canta, chi guida più forte. Professor Ferini Strambi, chiaramente sono tutti rimedi inutili fallimentari, è così? Ma sì, è così, perché la cosa fondamentale è quella che bisognerebbe cercare di dormire il necessario. Abbiamo sentito prima la telefonata precedente, che era il classico esempio di un soggetto che non è insonne ma è breve dormitore, cioè quei soggetti che dormono 3 ore, 4 ore e stanno benissimo, non hanno nessun tipo di problema. E poi questi soggetti, come diceva appunto prima la telefonata precedente l'ascoltatore, quando dormono 7 ore stanno male, ma perché i brevi dormitori devono dormire così poco e si possono permettere questo grande lusso di dormire poco e stare bene. Invece purtroppo poi ci sono quelli che dormono poco, potrebbero dormire di più ma non riescono, e certo, appunto sono gli insonni, oppure quelli che dormono poco, vorrebbero dormire di più ma non possono farlo, che sono i privati di sonno per necessità. Però ecco, la cosa fondamentale è questa: ci possono mettere in atto tanti meccanismi o tanti piccoli trucchetti, ma sicuramente tutti questi trucchi non riescono a farci superare tranquillamente quello che è il problema dell'attacco di sonno. Per evitare l'attacco di sonno bisogna dormire in maniera sufficiente e se uno ha problemi, come dicevo prima, legati a una frammentazione del sonno, cercare di eliminare quello che è il problema che frammenta il sonno. 800 24 00 24 se volete parlare delle cose che vi fanno addormentare, delle cose invece che vi tengono sveglie, pensieri ad esempio. Bruno, buongiorno da Roma e poi subito Sergio da Monza. Bruno. Sì, buongiorno, salve. Buongiorno. Perdoni, avevo solo una curiosità da non dare, nel senso che io per motivi di lavoro anni fa andavo regolarmente da Roma a Napoli con la macchina e tornavo verso l'ora di pranzo. Sì. E la cosa che appunto mi colpiva è che io praticamente riuscivo, avevo verso le 2:15 regolarmente tutte le volte come una sorta di blackout, cioè io ero, non riuscivo più a rimanere sveglio, quindi dovevo arrivare alla prima stazione di servizio ma sempre alla stessa ora. Ah, quindi era puntuale il blackout. Sì, puntualissimo. E poi bastavano 10 minuti di sosta per riprendersi. Per riprendere in maniera totale, completa, ma in quel momento era difficilissimo riuscire a rimanere sveglio, cioè io me lo sentivo, me ne accorgevo, però era una cosa estremamente complicata. Una situazione simile a quella che capitava alla nostra prima ascoltatrice che ci ha raccontato, sì, che ogni volta che dopo pranzo si mette in macchina le viene l'abbiocco. Professor Ferini Strambi, ci sono delle ore più a rischio? Ma sicuramente per abbiocchi? Sicuramente le ore più a rischio sono quelle, a parte le ore chiaramente serali notturne, ma le ore più maggiormente a rischio sono proprio quelle delle, diciamo intorno all'1:30 alle 2 del pomeriggio, proprio perché in questo orario è come appunto se si aprisse questa piccola finestra verso il sonno e quindi diminuiscono un po' anche le nostre capacità di stare svegli. Però ecco, tutto questo rientra poi in una cosa molto particolare, che è quella della ritmicità del sonno e della veglia, che è proprio geneticamente determinata, cioè quindi dentro di noi c'è proprio questo orologio che ci dà proprio esattamente i tempi, no? Un'altra cosa sempre relativa a questo aspetto, ci sono dei soggetti che dicono, ecco, a me viene sonno alle 11 di sera e se non mi metto a letto nel giro di un quarto d'ora, mezz'ora, poi dopo il sonno mi passa, no? Ecco, sono tutte queste situazioni legate proprio al fatto che non siamo sempre noi a comandare volontariamente quando andare a letto, quando svegliarsi eccetera, ma dobbiamo seguire un po' quello che è questa sorta di influenza genetica che ci impone determinati ritmi. Professor Ferini Strambi, io e Nicoletta la mattina siamo sveglie molto presto, perché qua 6:30, 7 già attivissime, siamo allodolissime. C'è invece qualcuno per cui il mattino è letteralmente un supplizio. Ci sono persone che presto non riescono proprio neanche a connettere esattamente, che addirittura non si sveglierebbero mai e rimangono poi, non solo non riescono a svegliarsi, ma quando lo fanno poi rimangono intorpidite a lungo e poi cattivo umore, diciamo la verità. Sì, c'è proprio chi il mattino è veramente il supplizio, abbiamo utilizzato la parola giusta, il caffè non serve a niente. Ci sono dei consigli pratici per chi deve invece essere subito attivo? Ma ecco, il consiglio pratico è questo: uno, ahimè, nei limiti del possibile dovrebbe scegliersi anche la propria professione in base a quello che è il proprio, quello che noi chiamiamo cronotipo, no? Cioè quindi il fatto di essere gufo all'odola, perché non è tanto il fatto di dire ci sono poi dei meccanismi per cercare di arginare questo problema, certo ci possono essere dei piccoli trucchi. Faccio un esempio: sì, il soggetto che è fondamentalmente gufo e che quindi chiaramente al mattino alle 7, alle 8 vorrebbe continuare a dormire per altre 2-3 ore, però purtroppo non riesce a farlo. Al di là del caffè, uno, diciamo, dei trucchi può essere quello di esporsi alla luce solare o anche diciamo in casi particolari quando c'è proprio una vera patologia, a quelle situazioni di terapia con la luce fatta con delle lampade particolari, ma comunque la luce, cioè quindi esporsi alla luce, perché la luce riesce in una qualche maniera a accelerare quel processo di ripresa del funzionamento del cervello. Però ecco, noi chiaramente se uno si trova di fronte a una situazione che non comporta particolari rischi o particolari, ecco, se voglio dire un impiegato non potrà fare dei grandissimi danni anche se non è magari lucidissimo. Beh, ma pensate voi a uno ad esempio che fa il lavoro come fare il chirurgo, sì, ecco, o il camionista o l'automobilista, ecco, cioè non oso immaginare cosa potrebbe succedere quando il soggetto che in quel momento deve lavorare, deve essere attivo, ha ancora il proprio cervello annebbiato in una condizione di intorpidimento. Quindi lo so che purtroppo a volte uno dice, ecco, il mestiere, il lavoro che uno fa, non è che se lo sceglie, la turnazione non è che uno se la può scegliere, però ecco, nei limiti del possibile sarebbe invece importante, perché così limiteremo molto dei rischi importanti. 800 24 00 24, andiamo a fare, come si dice, un'infornata di ascoltatori. Esatto. E chiediamo al professor Ferini Strambi, là dove è possibile, di dare un'indicazione concreta e pratica. Mm-hmm. Sergio ci chiama da Monza, buongiorno. Buongiorno signorine. Buongiorno dottore. Qua purtroppo ha ragione a metà Sergio, perché qua di signorine ce n'è una sola e qua abbiamo invece una signora. Però. Vi ascolto tutti i giorni. Grazie. Tenete compagnia. Volevo fare una domanda al dottor Ferini. Sì. Allora, io sono un grandissimo russatore. Mm. Faccio l'autista e ogni tanto mi vengono i colpi di sonno. Diciamo russo solo in posizione supina. Volevo sapere se ci sono dei rimedi che evitano la posizione supina, perché diciamo sul fianco la moglie mi tocca dentro, io mi giro, ecco. E non russo più. Così dorme lei, dormo io e ci svegliamo riposati. Volevo sapere se c'è qualche rimedio. Sì. Per non assumere più la posizione supina. Professor Ferini Strambi. Allora, dobbiamo legare questo povero Sergio. Lei lo sa, ce l'ha un rimedio per Sergio, il professor Ferini Strambi ce l'ha, vero? No, certo. Allora, questo è un grosso problema, è l'arrussamento solo in posizione supina, arrussamento, ma a volte anche le apnee che vengono fatte solo in posizione supina. Allora, i rimedi ce ne sono diversi, ci sono da quelli diciamo più artigianali come la pallina da tennis da dietro nella schiena, ci sono pure... Si cuce sul pigiama. Dei rimedi più complicati come dei collarini che impediscono, dando una scossa, impediscono il collarino della scossa mi evoca terribile. Immagini un po' trasgressive, non vorremmo mai che i nostri ascoltatori approfittassero del suo suggerimento per fare altro. Poi ci sono invece anche dei sistemi, e questo tra l'altro che è stato messo a punto anche da un nostro ex paziente, che è una specie di struttura particolare che viene indossata, una specie, potremmo quasi definire una sorta di reggiseno all'incontrario. Perché la fa ridere questa cosa qua? Ma senti un po', il collarino, il reggiseno al contrario, lei professore è... No, cioè perché è una cosa che si indossa con una specie lo si allaccia davanti, dietro c'è una piccola gobbetta che viene gonfiata e che diciamo così consente in questa maniera al soggetto di non stare in posizione supina e quindi necessariamente di mettersi sul fianco. Questa cosa è efficace perché abbiamo visto che è più efficace della pallina, perché a volte la pallina da tennis uno riesce comunque a fare il furbo e a trovare una posizione per cercare di stare in una posizione semi sul lato, non proprio, ecco, quindi non è molto efficace. Non si può guardare, però molto semplice, ecco. E efficace. C'è già qualche ascoltatore che scherza ovviamente su dorme supino, vabbè. Adesso poi lo leggiamo. Sì. Annunziata, buongiorno, ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io dormo tantissime ore, io addirittura vado a letto alle 9 di sera fino alle 6:30 dormo, quindi le ore di sonno ci sono, ma mi alzo spesso e volentieri stanca. Mio marito mi dice non sto fermo un secondo e mi sento nell'arco della giornata che non ho dormito bene, nelle notti in cui mi muovo tanto e che ho corrispondenza perché me lo dice mio marito. Ti sei mossa in esagerazione, mi sento la stanchezza durante il giorno, lo sento. Ecco, allora chiedevo se ci fosse qualche consiglio pratico. Mettiamo il reggiseno al contrario anche ad Annunziata. Professor Ferini Strambi. Ecco, questo secondo me è uno di quei casi dove bisogna fare una registrazione notturna, perché molto probabilmente il problema è legato al fatto di avere degli scatti alle gambe, quel fenomeno che noi chiamiamo mioclono notturno, che sono questi scatti periodici ogni 20, 30, 40 secondi durante il sonno, che vanno a creare una frammentazione del sonno, perché ogni volta che c'è questo scatto c'è un piccolo risveglio dell'attività cerebrale, cioè quindi il cervello si risveglia. E quindi chiaramente poi uno, anche se dorme 7 ore, al mattino è come se ne avesse dormite 2 o 3. Una cosa per capire, e questo ci aiuta molto nella storia clinica del paziente, per capire se c'è questo problema, è che il paziente spesso prova diversi farmaci, ma nessuno di questi farmaci, dei classici ipnotici, è in grado di diciamo così migliorare la situazione se non per qualche giorno. Ecco, quindi quando ci sono queste situazioni, quando, ripeto, c'è un problema che uno dice dormo 7 ore ma non riesco a capire perché, ecco, il per capire il perché bisogna fare una registrazione, come dicevo prima, quel polisonogramma che abbiamo prima citato, proprio per capire la possibile causa. Professor Ferini Strambi, lei la suggerisce la melatonina in qualche caso? Adesso, a prescindere dalle situazioni in cui si ritorna dal lungo viaggio e bisogna ripristinare il ritmo del sonno? Ecco, beh, quello è la classica situazione in cui la melatonina veramente serve. La melatonina è anche utile per, abbiamo citato prima i gufi, per cercare di migliorare appunto il sonno notturno nei gufi anticipandolo, e prendendo la melatonina non a mezzanotte, all'una, ma in questi casi si prende magari alle 9, alle 10 di sera. La melatonina può essere utile nei soggetti anziani dove c'è comunque un calo della melatonina, del rilascio di melatonina, e quindi in questi casi di insonnia dell'anziano può essere utile. Ecco, la cosa però importante è non pensare che la melatonina sia così potente come gli ipnotici, perché così non è. La melatonina è molto importante per cercare di creare una sorta di rilassamento generale, che è quel rilassamento che poi facilita, diciamo così, lo scivolamento verso il sonno. Se uno vuol provare l'effetto della melatonina, può andare a sentire una conferenza in un'aula abbastanza buia, buio o semibuia, e si accorgerà di quello che la melatonina in realtà fa. Quando noi siamo in queste aule buie e semibuie, siccome non c'è luce, viene rilasciata la melatonina e noi cominciamo ad avvertire quella sorta di rilassamento generale. Quindi, e quello è quello che la melatonina può fare alla sera per farci addormentare. Magari scegliamo una conferenza più interessante da andare a sentire in queste aule buie. Nicoletta? Io non so come tenerla oggi. Il professor Ferini Strambi ci ha dato qualche consiglio. Abbiamo parlato della pallina, di questi collarini che stanno già facendo un po' infuocare i nostri ascoltatori, anche del reggiseno al contrario, ma in linea con noi abbiamo Enrico Pagliarini, che non ci parlerà di reggiseni né di palline, ma di tecnologia che aiuta a evitare i colpi di sonno. Ciao Enrico. Ciao. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eccoci qua, conduttore. Dunque, nostro grande conduttore di 2024. Hai già parlato di questi argomenti, Enrico? No, devo dire che non l'ho mai fatto, effettivamente. Vedi? Questa è una buona idea. Bravo. Allora, partirei dalla tecnologia più vecchia e meno costosa, almeno per gli automobilisti, che sarebbero le bande rumorose al posto delle strisce. In alcune autostrade ci sono, non in tutte devo dire, e direi che sulla A1 che va fino a Bologna, io la uso piuttosto spesso, non ci sono. È autostrada per l'Italia, dovrebbe spendere qualche soldo. Però, l'abbiamo mandata un'altra. Esatto. Anche lui è diventato ministro per un giorno. Esatto, perché già li abbiamo abbastanza massacrati, no, ma insomma, abbiamo dato dei bei suggerimenti all'inizio. Abbiamo aggiunto un elemento, no? Allora, le tecnologie più efficaci sono quelle che sono a bordo dell'automobile. Ci sono già delle automobili, devo dire purtroppo ancora modelli molto costosi, non le utilitarie, perché stiamo parlando di tecnologie che sono piuttosto costose, sostanzialmente si basano su videocamere che ci controllano. In un caso c'è solo una videocamera, in altri ce ne sono due, che controllano i nostri occhi e controllano la nostra testa, e si accorgono se o chiudiamo gli occhi oppure se la nostra testa si abbassa. Ci sono addirittura anche sistemi che controllano il nostro stile di guida e quindi si accorgono se cambiamo drasticamente stile di guida e ci avvisano con segnali acustici e anche con... No, ma non sono delle telecamerine, Enrico, modello quella che mi sembra avesse Schumacher sopra il casco per monitorare? Ecco, no, quella non registra nulla, è solamente un segnalatore. Che usano varie tecnologie, in alcuni casi infrarossi, in alcuni casi c'è proprio una videocamera classica, ma è associata insomma ad altri sensori, quindi sono cose un po' più sofisticate. E quindi costano insomma un po' per pochi. Sì, insomma, sicuramente quando si acquista un'auto, se uno non acquista una utilitaria, può essere un parametro da utilizzare. Sono molto efficaci, non c'è dubbio. Poi ci sono delle cose un po' più economiche. Sostanzialmente si tratta di due tipi: o dei piccoli strumenti da mettere in automobili, ad esempio ne ho scoperto uno che ti fa delle domande, devi rispondere alle domande, se non rispondi ti accorgi che qualcosa non funziona, però insomma sull'efficacia non so. Ci sono delle cuffiette che si mettono sopra all'orecchio, controllano il movimento della testa, se la testa si abbassa un po' troppo si accorgono di questo e ti vibrano e ti fanno, in alcuni casi vibrano, in alcuni casi emettono dei suoni, quindi ti dovrebbero svegliare. Chiaramente tu quale ti prenderesti, Enrico? Esatto. Tu hai colpi di sonno? No. Ma direi raramente. In alcuni casi mi fermo. Sì. Vado all'autogrill, mi metto lì, anch'io. Faccio un 10 minuti di pausa. Vado a comprare magari un biscottino, io anche ci aggiungo, direi. Sì, esatto, un caffè, qualcosa del genere. Io cercherei di acquistare una macchina con questo sistema, però... Certo, bisogna iniziare a risparmiare. Nell'attesa possiamo usare queste piccole cuffiette. Queste soluzioni, sì. Enrico, volevo lasciare lo spazio a Luisa, che ci chiama da Monza, perché rapidamente ha una domanda per il professor Ferini Strambi che riguarda il suo bambino. Buongiorno. Ecco, buongiorno, sono Luisa. Sì, il bambino è cresciuto, Ho un figlio di 40 anni che continua a sbadigliare tutti i giorni, cioè tutto il giorno è il calo di zuccheri, Luisa, da mamma, lo fa solo con lei? Non ho capito, lo fa solo con lei? Lo sbadiglio? No. Professor Ferini Strambi, siamo quasi in chiusura, sbadigli. Certo. Non è la mamma a farlo sbadigliare, ma sbadiglia spesso questo bambino di 40 anni. Che cosa deve fare? No, il bambino deve essere sicuramente studiato, perché non ha un buon sonno, quindi bisogna capire perché c'è questa facile tendenza all'addormentamento. Ecco. Poi appunto bisognerebbe creare poi le condizioni particolari per vedere se questo sbadiglio è una situazione, diciamo così, naturale, oppure cambia a seconda dell'ambiente, della situazione e della condizione. Perché spesso, ahimè, è noia, non necessariamente legato al fatto di avere un sonno notturno poco buono. Appunto. Per questo, quindi però, non è il calo di zuccheri, perché anche quello è il calo di zuccheri, ma tanto. Non è neanche la sua mamma. Senti, ma il professor Ferini che aveva citato prima le sgambatelle nel letto? Sì, le sgambatelle nel letto, esatto, saranno oggetto di una puntata, perché parleremo di sgambatelle all'inizio dell'addormentamento e durante il sonno. Professor Ferini, quelle deve di Sandra fare Mondaini, qua. Quelle di Sandra e Raimondo, giusto? Sì, beh certo, ancora più accentuate rispetto a quelle di Sandra Raimondo. Perché ce lo segnala Ugo su Facebook. Dobbiamo salutarci, grazie professor Ferini Strambi, grazie ad Enrico Pagliarini, a voi che ci avete seguito. A domani.